presentato, anzi, questa sera alle 18.30 alla libreria Libri Senza Data. L'indirizzo è Ripa di Porta Ticinese al 57. Il libro, edito da Colibri, si intitola così: Prendiamoci la città, una storia così non dovrebbe finire mai. Gli autori del libro sono un collettivo, il collettivo La Barricata, che racconta un momento particolare della lotta politica, sociale e culturale dell'inizio degli anni 70, quello delle occupazioni, attraverso interviste, articoli, foto, insomma, si racconta le occupazioni ma anche molto di più. Roberto Festa ha intervistato due degli autori e andiamoceli a sentire. Si era capito che la lotta che era andata avanti in fabbrica fino ai contratti del 69 aveva in un certo senso raggiunto il culmine del suo impatto sul sociale, sulle persone, e invece quello che mancava era come far uscire gli operai dalla fabbrica e farli entrare in contatto con l'esterno, perché tutti i problemi, poi a parte i problemi avuti in fabbrica, in effetti erano tutti all'esterno, che fossero le scuole, la salute, il fatto di vivere insieme o di non vivere insieme. Quindi si cominciò intanto a analizzare dove viveva questa classe operaia di cui tanto si parlava all'epoca, tenendo conto poi che nelle occupazioni, soprattutto nelle prime occupazioni, non erano tutti operai, c'erano sottoproletari, c'erano immigrati. Quindi cominciarono delle discussioni e degli incontri con queste persone che la gente incontrava o all'uscita delle fabbriche o più direttamente nei centri sfrattati, dove si andava a cercare persone che erano senza casa o che perché erano appena arrivati o perché non avevano il lavoro. E il contatto fu abbastanza difficile all'inizio, perché non è che allora il problema della casa non venisse affrontato in giro. C'erano gli inquilini che se ne occupava, c'erano delle occupazioni individuali, sporadiche, che venivano fatte, poi magari venivano sgomberate, ma insomma. E quindi lì invece si cercava qualche cosa di più, unire la gente per renderla più forte. Vorrei ricordare tre, intanto ve ne occupate nel libro, no? Tre occupazioni importanti di quei mesi: il Gallaratese, MacMahon e poi Tibaldi, che è importante perché c'è un grosso poi seguito anche, appunto, polizia giudiziario anche, e lì c'è il collegamento, no, poi con architettura. Cioè. Ecco, vogliamo ricordare questi tre momenti. Allora, Gallaratese. Sì. Lì io parlo di Lotta Continua e di Sinistra Proletaria, che erano poi le due organizzazioni che erano le più investite, si erano più investite di questo lavoro. Quindi si va al centro di Novate, era il centro sfrattati più grande, che anche l'ultimo a essere poi distrutto su ordinanza del sindaco e su richiesta della magistratura. Al Gallaratese si va, si parla con la gente. Le famiglie che vengono radunate sono 15-20, diciamo, quindi poi che con i bambini tutto 60-80 persone, si va in questi immobili dell'IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, e lì si occupa. La polizia arriva praticamente subito, lo sgombero è mediamente violento, cioè neanche tanto, però quello che era nella testa di tutti era che il Gallaratese era la prova generale. Poi fai la prima e che poi è il MacMahon, poi la prima era, la prima quindi era MacMahon. Allora MacMahon la cosa diventa un po' più articolata, simpaticamente articolata. Lotta Continua si occupa dell'occupazione delle scale, mettendo gli occupanti scala per scala con i militanti dell'organizzazione. Sinistra Proletaria viene incaricata della difesa, cioè barricate, cose così, esterna. Gli anarchici, che si erano attaccati a questa cosa, loro facevano quello che desideravano. La polizia arrivò, 900 persone, 900 per una cosa di 40-50 famiglie, cioè roba da niente, e sgomberò tutti. I tentativi di resistenza furono praticamente nulli, perché loro erano troppi. Vengono arrestate 25 persone, e vorrei soffermarmi solo su quello che poi successe al processo. Tutti quelli che erano stati accusati di occupazione abusiva di stabili vennero tutti assolti, perché la casa è un diritto che quei lavoratori lì avevano già pagato con le loro trattenute GESCA, quindi avevano tutto il diritto di occupare la casa, anche perché, preciso, vale anche per Tibaldi, non è che la gente chiedesse quelle case, voleva semplicemente esplicitare il proprio diritto alla casa. Ecco, e Tibaldi invece? Tibaldi invece lì fu una meraviglia, perché il giudice che aveva scarcerato tutti gli altri e dato le case a tutte le famiglie, la gente era entusiasmata, quindi arrivavamo a 200 famiglie. L'occupazione era enorme, le case erano tre palazzini che sono ancora lì, di lusso. Correva voce. Ora sono ancora lì. Correva voce che una già fosse stata assegnata al, non so, a un parente del sindaco, non mi ricordo più il grado di parentela. E poi cosa succede? Che la gente sta lì. E straordinariamente, al contrario di quello che era successo in Galaratese e a McMahon, lo sgombero non avviene. Quindi la gente si organizza. E sono quelle tutte quelle fotografie che tu hai visto nel libro, che credo siano tutti di Tano D'Amico, quelle prese dentro l'occupazione. Quindi la mensa, l'asilo, c'era anche un ambulatorio, insomma era tutto organizzato perfettamente. E poi c'era questa cosa, che allora era arrivato il momento finalmente, visto che non era più la prova generale o il primo, eravamo proprio nella rappresentazione, andiamo a prenderci la città, dove, che consisteva in scendere in strada sulle circonvallazioni davanti alle case e lì fare dei blocchi stradali distribuendo volantini con dei grossi manifesti che spiegavano cos'è che stavamo facendo o cos'è che stavano facendo, e venivano chiesti soldi, cose. E quello che è incredibile è che la gente, nonostante passasse poi ore lì bloccata con il traffico delle 5 e delle 6, non cercava neanche di uccidere l'occupante arruotandolo, cioè dava i soldi, parlavano, discutevano, accettavano il volantino e tutto. Ecco, allora, Luigi, sarà un risotto che vi seppellirà, no? Materiali di lotta dei circoli proletari giovanili di Milano, appunto un libro di Squilibri edizione dell'aprile, no? 1977. Come questa vostra esperienza, no? Di questi documenti che tu a un certo punto, allora, nel 1977 raccogli, lo ricordo, sono gruppi, sono persone, sono idee in qualche modo anche poi anticipatrici del movimento poi del 77, no? Quindi alcune istanze, la rivendicazione dei bisogni, un nuovo modo di intendere il tempo libero, la liberalizzazione delle droghe, la lotta però all'eroina, no? Ecco, tutte queste cose. Ecco, allora, come si intreccia la tua vicenda e questo libro, Sarà un risotto che vi seppellirà, al movimento per l'occupazione delle case? Beh, si intreccia, possiamo pensare che fossero i loro figli, nel senso che per quanto riguarda le occupazioni successive dei giovani che aiutavo a organizzare, si trattava, erano giovani, quindi non erano famiglie, gli operai adulti, che passavano dalle panchine dei quartieri e della periferia di Milano a organizzare i loro bisogni dalle panchine per avere degli spazi più agevoli, come i centri sociali. Si può dire che sono nate da lì le occupazioni, la storia delle occupazioni di centri sociali. Il bisogno di giovani di stare insieme, fare musica, magari anche fumacchiare, fare altre rappresentazioni, avere dei punti di forza, soprattutto dalla piazza del quartiere o della cittadina dell'internet, tipo Cinisello, San Giuliano, eccetera, darsi uno spazio organizzato che gli permettesse di potersi ritrovare anche non solo nella bella stagione ma anche in inverno. Quindi individuazione degli stabili che potevano essere occupati e abbandonati, loro sistemazione e loro sviluppo. Ricordiamo appunto che racconta questa esperienza, questa storia e parla quindi della nostra città, dei quartieri popolari di Milano e non solo. Verrà presentato alle 18.30 alla libreria Libri Senza Date, Ripa di Porta Ticinese al 57. Prendiamoci la città. Siamo in chiusura, il tempo per ricordare che in